Europa 24. Se ci fosse uno stop delle forniture di gas dalla Russia in inverno, quasi l'intera Unione Europea, eccetto la penisola iberica e la Francia del Sud, sarebbe verosimilmente toccata in modo diretto. È l'allarme lanciato da uno studio della Commissione Europea sulla sicurezza energetica. La Commissione propone di realizzare stress test a livello regionale ed europeo, simulando uno stop dei flussi di gas per prepararsi al prossimo inverno in caso di interruzioni delle forniture ed identificare i rischi e i meccanismi per prevenirli. Fra questi, l'aumento delle riserve di gas, la diminuzione della domanda di gas passando ai combustibili per il riscaldamento e l'ammodernamento delle infrastrutture. Dopo il voto di domenica, l'Europa è alla ricerca di nuovi assetti e di nuove politiche. Ieri sera si è tenuto il primo vertice dei leader, ma non c'è ancora il nome del nuovo presidente della Commissione Europea. È terminata con un nulla di fatto la cena dei capi di Stato e di Governo dell'Unione ieri sera qui a Bruxelles. I negoziati con il Parlamento sul futuro Presidente della Commissione europea sono appena iniziati e si presentano ardui. Il capolista popolare Jean-Claude Juncker non piace a molti governi, anche se arrivando primo al voto di domenica per il rinnovo del Parlamento avrebbe le carte giuste per ambire alla posizione. Il braccio di ferro è tanto politico quanto istituzionale. Il Consiglio europeo vuole poter avere l'ultima parola sulla scelta del successore di José Manuel Barroso, a dispetto del risultato del voto. Nel frattempo, proprio oggi, la leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, vittoriosa in Francia, sarà in visita a Bruxelles per negoziare un eventuale nuovo gruppo parlamentare di euroscettici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Tra euroscettici, indignati e neonazisti, nel Parlamento europeo entra ufficialmente lo scontento per una politica economica sottoposta ad anni di dura crisi economica, un fronte anti-UE che potrebbe raggiungere 140 seggi, rappresentando quota 20% dell'Assemblea. La composizione del nuovo Parlamento sarà definita solo il 24 giugno, data limite per la presentazione dei nuovi gruppi, ma intanto Marine Le Pen è già pronta a grandi manovre. Oggi sarà a Bruxelles per incontrare una serie di responsabili politici, tra cui cita la formazione neonazista Alba Dorata, lo Jobbik ungherese, il bulgaro Ataka e la Lega Nord, escluso invece un incontro con il parlamentare neonazista tedesco Udo Voigt. Un'ipotesi di alleanza, quella della Lega con Le Pen, che sta scatenando polemiche in Italia. Se così dovesse essere, dice il capo della comunità ebraica romana Pacifici, questo partito si metterebbe fuori dal contesto democratico e diventerebbe un partito xenofobo. Incerto ancora invece il destino dei 17 eurodeputati del Movimento 5 Stelle. A voler esplorare un possibile accordo con loro è Nigel Farage, il leader del partito euroscettico UKIP, che ha vinto le elezioni europee in Gran Bretagna e che esclude invece qualsiasi accordo con Marine Le Pen. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in questi minuti il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, si sta incontrando con la presidente del Front National, la francese Marine Le Pen. In Europa saremo all'opposizione con lei, ha fatto sapere Salvini. L'Unione deve tornare a parlare la lingua dei cittadini. Chiacchierata questa mattina di Salvini con Beppe Grillo, anche il leader del Movimento 5 Stelle a Bruxelles per incontrare il leader dell'UKIP Nigel Farage, incontro che dovrebbe tenersi in questi minuti. E parla di un'Europa vicina ai cittadini anche il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, che ieri ha partecipato al vertice di capi di Stato e di Governo. Sentiamolo nell'intervista del nostro inviato Sergio Nava. Io sono qui in questa sede a rappresentare l'Italia, rappresento dunque uno dei più grandi paesi dell'Unione Europea, un paese che intende affrontare le tante questioni che sono sul tavolo della discussione con decisione, con determinazione, e credo che sia necessario portare l'Europa a parlare del linguaggio concreto dei cittadini. Questo è quello che interessa a noi italiani, questo è quello che faremo sentire con grande determinazione nel corso di questo percorso che inizia adesso. Ma la risposta da retta all'ondata euroscettica che c'è stata? È stato un messaggio molto forte, ci si attende che oggi 28 leader diano una risposta e convinca i cittadini. Ma per quello che ci riguarda mi pare che l'abbiamo data alle elezioni. L'Europa si trova di fronte ad un bivio fra una crescita asfittica e una velocità diversa. La differenza è nelle mani dei policy makers europei, in particolare del governo italiano. Lo ha detto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, definendosi convinto che la presidenza italiana dell'Unione Europea saprà dare una svolta. Migliora la fiducia delle imprese nell'Eurozona a maggio. L'indice sale a 102,7 punti da 102 di aprile. Il dato è migliore delle attese degli analisti che puntavano su un rialzo a 102,2. È tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.